settembre, luglio, agosto, settembre. Luglio, agosto, settembre, luglio, agosto, settembre. Un'altra estate che se ne va. E allora rivoluzione, sempre rivoluzione. Dentro e fuori di me. Ma no, non mi lamento per la mia situazione. Finché posso scrivere una canzone. Ma se anche la leggerezza ha il suo aspetto pesante, piange anche un cantante. Tu non ci crederai, ma piange anche un DJ. Anche se ha quella voce, ok. Non è, non è sempre estate, non è sempre in onda, non si è. Non è, no. Ottobre, novembre, dicembre, sempre rivoluzione. Ottobre, novembre, dicembre, ancora rivoluzione. Non mi voglio arrendere mai. Certe notti nel letto penso alla mia vita e non mi sento a posto. Vorrei fare di più ed essere più profondo. Vorrei cambiare anche il mondo. Ma poi mi metto a dormire, forse per non sentire, perché è già tardi. Non è, non è sempre estate, non è sempre il sole, non c'è. Non è, non è sempre festa, non è sempre al mare, non si. Non è, non. Luglio, agosto, settembre, sempre rivoluzione. Rivoluzione. Tra i palazzi e le case della mia città c'è sempre molto che non va. E fra tutta la gente, sì, fra tutta la gente, sempre poca umanità. Ma dimmi come si fa a fare del bene al mondo. Dimmi come si fa. Non è, non è sempre estate, non è sempre al mare, non si. Non è, non è sempre sole, non c'è sempre festa, non è. Non è, non è sempre estate, non è sempre in onda, non si. Non c'è sempre sole, non c'è sempre.